Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Sesta puntata. Troppo piena di luce, troppo bianca, troppo calda. Xenia aveva vissuto in tante case, ma a questa non riusciva ad abituarsi. Il sole della riviera italiana non concedeva scampo alle melanconie. I suoi raggi sfrontati davano evidenza a ogni stanchezza, ogni ruga, ogni solitudine. Eppure ora il suo destino era lì, in quel paese dove la neve bisognava andarsela a cercare sui monti. Ma lieve e parziale, è sempre in via di scomparire. Niente a che vedere con la gelida, composta compattezza del grande inverno russo. Perduto Lev, perduti o lontanissimi, i parenti e molti dei compagni, quel che le restava erano i rimasugli del Partito Social Rivoluzionario, un piccolo esercito di esuli e l'ultimo capo superstite, Savinkov. Un brulicare di bisogni, la solidarietà sempre più difficile, i pettegolezzi, gli intrighi. Progetti fumosi, ormai poco più che sogni. E su tutto il grande occhio della polizia italiana, pronta a confinare, ad assoldare spie, ad espellere. Ogni passo un controllo, ogni gesto un verbale. Xenia guardò sua figlia, Xeniuska, che seduta al tavolo di cucina troppo alto per lei, allineava su un quaderno i caratteri cirillici che sua madre le aveva insegnato a riconoscere. L'inutilità palese di quella fatica l'aggredì. Non in Russia certamente sarebbe cresciuta sua figlia. Lo zar ben saldo sul trono sconsigliava ogni speranza. E poi la stanchezza di quella vita randagia, senza punti di riferimento che non fossero interni a se stessa. Le dita abituate a maneggiare dinamite, utili ormai soltanto per intrecciare cestini, per lavorare all'uncinetto. C'era il rispetto di tutti per la vedova di un martire, ma anche le invidie, le critiche, le piccinerie, il fastidio degli altri per quella bambina silenziosa ma comunque ingombrante in un mondo di adulti, di gente troppo presa a immaginarsi il mondo per rispettare con il tono della voce il suo sonno. La decisione prese forma dentro di lei con chiarezza ultimativa. «Partiamo», disse a Xeniuska, e già apriva le valigie, il piccolo baule che conteneva tutti i loro beni. «A casa di chi andiamo?» chiese la bambina chiudendo il quaderno. Ripose il lapis, pronta, abituata agli spostamenti e alle ospitalità. «A casa nostra», disse Xenia, piegando abiti, riponendo libri. Sua figlia ferma al centro della stanza, incerta, curiosa di una destinazione per lei indefinibile. Xenia si avvicinò, le tirò allegramente una treccia, le aggiustò il nastro, le mise le mani sulle spalle, si chinò sulle ginocchia per guardare dritta negli occhi la bambina. «Avremo una casa nostra», annunciò, «a Roma». Poi scomparve, presa da faccende e decisioni. Obbediente, Xeniuska fece la parte che le competeva di preparativi e bagagli. Non disse degli amici che si era fatta, delle piccole consuetudini rassicuranti che ancora una volta doveva abbandonare. Poco abituata a lamentarsi, badò soltanto a trovare un posto comodo per Mishka, lo sacchiotto di pezza che suo padre aveva comperato per lei prima di sparire. L'estate fu ricca, distesa. Al ritorno dal forte, Alfonsa, pur nei vestiti sempre scuri, indossava una sua allegria sobria. L'aria del mare aveva giovato anche a lei e i suoi figli erano il ritratto della salute. Ermelinda, che aveva difeso il candore dell'incarnato con un assillante parasole, criticava quel loro colorito che, diceva, gli assomigliava a dei bifolchi. Però del fatto che Mimmo avesse smesso la brutta tosse dell'inverno continuava a gloriarsi, come di una sua conquista personale. E poi, in verità, i capelli ben lisciati, gli abitini alla marinara impeccabili, le fibbie lucenti delle scarpe, li facevano, senza ombra di ambiguità, borghesi. Già a pochi anni con quell'aria inconfondibile di benessere e potere. Il treno si fermò sferragliando alla stazione di Termini e subito si capì che l'afa a Roma, in quel finire d'agosto, non era diminuita. In vacanza Mimmo ai libri non ha pensato più e nessuno lo ha sollecitato a riprenderli. Il piccolo difetto ad un occhio che Lello ha registrato consiglia di evitare sforzi eccessivi. È lo strabismo più o meno marcato di tutti i sereni. L'occhio di Venere lo chiamano ed è la garanzia contro altre mancanze più minacciose. Occupato in vulcani di sabbia e castelli in terra battuta, ha usato la memoria delle storie per farsi di volta in volta Tremalnaik o Aramis. La capacità di leggere, così fascinosa ma tanto recente, l'ha quasi persa. Mimmo in piedi, sul predellino alto del treno, ad aspettare che qualcuno si occupi di lui. I cartelli inalberati dagli uomini che si affollano lungo i vagoni gli sembrano una fantasmagoria, segni tracciati con la vernice rossa in un disegno incomprensibile. Nella piccola foresta di cartelli in movimento, uno si ferma proprio all'altezza dei suoi occhi. Mimmo si sforza di leggere. La scritta scivola via molto in fretta. Poi qualcuno si ricorda di lui e Mimmo viene tirato giù dalla sua torre di vedetta. Pellegrino, che li accompagna nel ritorno a Roma, avanza in silenzio, stringe le labbra come per impedirsi di parlare e saetta all'intorno certe occhiate di fuoco. Alfonso ed Ermelinda camminano il più rapidamente possibile, attente a non lasciare indietro i bambini. Lello, per ridurre i tempi, prende in braccio Mimmo. Con i facchini carichi di bagagli si avviano finalmente verso l'uscita, alle carrozze. Lì, dove la banchina comincia, i cartelli fanno siepe ad un gruppetto di bambini smunti, tutti con una fascia rossa al braccio. Più indietro, visibile, un cordone di gendarmi. C'è nell'aria un odore di minaccia, di scontro, un silenzio pesante. Con uno sforzo del quale il timore è a grande parte, Mimmo riesce a leggere un cartello e poi, come per una magia ritrovata, tutti gli altri. «Proscioperanti e serrati di Piombino ed Elba», c'è scritto. E sulle fasce rosse ricorderemo il nostro esilio. La parola esilio, per i racconti biblici tante volte ascoltati, Mimmo la conosce già. Pensa che devono essere ebrei come lui. Ma scioperanti e serrati? Sta per chiederne al padre, però anche Lello ora ha una gran fretta e lo mette in terra bruscamente per star dietro a una cesta di vettovaglie minacciosamente in bilico sulla pila dei bagagli. La carrozza è lì ad attenderli, ma attorno ce ne sono molte altre, Mimmo compita sulle dita, sono 15, ancora con cartelli e parole incomprensibili e con drappi rossi che si muovono al vento e fanno allegria. A casa Finimola e Dalinda li accolsero con molti baci per i bambini e un telegramma da Pisa per Pellegrino. I bambini sgusciarono in terrazza. I telegrammi, si sa, non portano mai notizie buone. Pellegrino mandò Finimola al telegrafo con un messaggio molto lungo. Poi ordinò i bagagli per Pisa. Prima non s'era parlato di partenza vicina. Dalla porta socchiusa i bambini lo sentivano parlare a voce alta, quasi fuori di sé. Quella parola, sciopero, tornava in continuazione. Così Mimmo ne chiese il significato ad Enrico, detentore di un dizionario che era oggetto di molte invidie. Sciopero, astensione dal lavoro per protesta o per costringere a chiedere maggiore mercede. Lesse Enrico, seduto insieme ai fratelli sul pavimento a mattonelle della terrazza. Il tono di Pellegrino sempre più alto, brandelli di frasi irritati. «Tutti i telai fermi, ve lo immaginate?» 2600 operai fermi e per che cosa? Per un puntiglio! Arrivano i cotoni nuovi e io che cosa ne faccio? Ditemelo voi! Cosa diavolo devo farne? Alfonso passò nel corridoio, sulle braccia una pila di biancheria estiva da riordinare. Si fermò e tirò il padre per la manica, richiamandolo alla moderazione. Pellegrino abbassò il tono, i bambini sentirono ancora carabinieri e poi niente altro che un mormorio indistinto. Sciopero, primo e principal mezzo della cosiddetta lotta di classe, lesse ancora Enrico. Si misero a discutere a bassa voce, curiosi soprattutto di capire cosa potesse entrarci il nonno Pellegrino con quelle parole lì. Alfonsa continuava nei suoi andirivieni di riordino, seguita dalle serve che le obbedivano senza entusiasmo, stremate dal caldo. «Ma nonno dice sempre che lui con gli operai si vogliono bene», disse Mimmo. «Certo che se poi gli fanno la lotta lui ci resta male. Mi sa che è per questo che si arrabbia». «Quei bimbi della stazione erano magri magri», osservò Lea intristita, abbracciando forte la sua bambola. «Eppure i grandi erano brutti, sciupati». «Ma quelli avranno un padrone cattivo, mica uno come nonno», disse Enrico, che pure serbava il ricordo confuso della visita ad una delle fabbriche di Pisa, il rumore terribile dei telai, i vapori delle bacinelle, i ragazzi poco più grandi di lui con occhi gonfi e schiene smagrite. «Ci sono i padroni buoni e quelli cattivi», disse Enzo con l'aria di saperla lunga. Di nuovo sullo sfondo la voce di Pellegrino salì di tono. «Con i gendarmi a cavallo!» urlava. Alfonso, passando, chiuse una finestra. Il seguito non riuscirono a sentirlo. «Allora gli operai che fanno la lotta ai padroni buoni sono cattivi?» chiese Lea, che non amava le mezze misure. Alfonso, che aveva colto una frase qui e una là, si fermò nel suo via vai. Li guardò uno per uno, altissima su di loro seduti in terra, poi disse: «Il nonno Pellegrino è un uomo giusto». Non c'era altro da dire. Tranquillizzati, i bambini presero a far capriole e scherzi. Giocarono per un po' ad acchiapparella, ma erano stanchi. Sedettero di nuovo in circolo, sfidandosi l'uno con l'altro all'immobilità, il gioco che chiamavano gli asinelli al sole. Dalinda annunciò la carrozza. Finimola si caricò del bagaglio. Alfonso segnalò al padre un bottone slacciato del panciotto. Pellegrino non diede segno di averla sentita, pallido per rabbia e preoccupazione. I bambini si affacciarono alla balaustra, eccitati come sempre per le partenze. Dalla curva di via Cavour, le carrozze con le bandiere rosse scendono verso via dei Serpenti, inalberando quegli stessi cartelli che si accalcavano alla stazione. Ora i bambini con la fascia rossa attraversano scortati la grande città, la capitale. Dall'alto Mimmo vede ancora, come i suoi fratelli, i vestiti frusti della gente, le mani sciupate, i mille particolari che rendono quegli uomini e donne, quei bambini, così diversi da quelli che sono abituati a frequentare. Poi vede i carabinieri, una linea nera e netta che in ogni direzione separa il corteo dal resto della città. «Siamo costretti ad andar via, a lasciar le nostre madri!» Il coro si levò alto, rimbombò fra i palazzi che fiancheggiavano la via. Mimmo batteva il tempo con il piede, arrampicato sulla balaustra per lui alta. Finimola vide il pericolo e, prendendolo fra le braccia, lo tolse da lì. Trincerato dietro la scrivania ricolma di carte, il questurino esaminava la sua pratica. Lo spillo che teneva insieme ai fogli era tutto corroso dalla ruggine e la preoccupazione di pungersi traspariva da ogni suo gesto. In piedi di fronte a lui, Xenia era immobile, attenta invece a non concedergli alcun indizio di nervosismo, di apprensione. Era vestita di scuro e inappuntabile. Sapeva come in quelle occasioni fosse utile apparire piacente e signorile, ma non troppo. Il funzionario confrontò con il passaporto vari moduli. le incongruenze di trascrizione che rabbiosamente sottolineava con la sua matita rossa e blu lo infastidivano in misura visibile. Al posto della X di Xenia, qualcuno aveva messo a volte una S e a volte un K. Il cognome Zilberberg era scritto in modi continuamente differenti. «Allora, signora Zilberberg?» cominciò interrogativo l'uomo. «Zilberberg», precisò automaticamente Xenia. Il questurino sembrò irritarsi ulteriormente. Le spiegò con voce gelida come a una bambina. «Un cognome tedesco, non è vero? Lei è russa e forse non sa. Silber come argento, Berg come montagna. Questo è il modo giusto e d'ora in poi saremo bene attenti a rispettarlo, non è vero?» «D'accordo», acconsentì Xenia. E da allora nemmeno il nome fu più suo. La pronuncia e la grafia russe che aveva conosciuto e amato, cancellate via dalla decisione presuntuosa di un ometto dai baffi sottili, le dita ingiallite dalla nicotina, le mezze maniche. Un paradigma di mediocrità sul quale era affatto sconsigliabile ironizzare. Sempre attento allo spillo rugginoso, il questurino ripose la pratica che la riguardava in un fascicolo più ampio. Lo richiuse, accostandone con cura i lembi, ne lisciò con la mano la copertina, come per sottolinearne l'intestazione. In grafia arricciolata, la targhetta recava la scritta «Sudditi russi da controllare». «Vada», disse l'uomo. Solo dopo aver lasciato dietro di sé la porta dell'ufficio e i corridoi male illuminati e pesanti di polvere e il portone cupo, solo fuori all'aria aperta Xenia si permise un sorriso. Stringendo in mano il foglio che l'autorizzava a fermarsi, a stare, a vivere, con gli occhi allegri andò a comprare 4 paia di lenzuola. Per esaminare la signorina nuova, Alfonsa convocò come di consueto Ermelinda. Lo spirito critico di sua sorella, talvolta fastidioso, per tutto ciò che riguardava l'educazione dei ragazzi, le era invece di grande sostegno e utilità. Insieme, la traccia di Pellegrino si faceva più visibile e chiara. Diverse come erano in apparenza, le univa la volontà comune, quasi un'ossessione, di scegliere per loro il meglio, perché dovevano essere i migliori, i più bravi a scuola, i primi, benché sempre i più piccoli d'età, classi saltate a ripetizione per arrivare più in fretta e non ci si chiedeva dove. Su questo non c'erano difficoltà né dubbi, ma non bastava, perciò i libri e la ginnastica, gli abbonamenti ai concerti, quel modo di rendere familiari altre lingue già da bambini, nei giochi e nelle chiacchiere della casa. Dell'essere sempre pronti ad ogni evenienza e alla fuga in altri luoghi e della necessità di mimetizzarsi non si faceva cenno. Perché rispolverare i fantasmi cupi del passato quando il futuro appare una mano tesa? La francese per prima aveva concluso il suo ciclo, anche l'inglese aveva finito e l'esperienza non era stata buona. Perciò la tedesca che doveva arrivare, meglio scrutarla con molti occhi. Niente svenevolezze stavolta, né troppe smancerie. «Per l'ebraico cosa pensate di fare?» chiese Ermelinda, scegliendo fra i fili di seta del suo cestino da lavoro la sfumatura adatta al fiore che stava ricamando. Le vendite di beneficenza per la comunità la vedevano sempre in prima fila. Produttrice instancabile di cuscini, copritegliera, pupazzi di stoffa, ricavati da campionari in disuso che Pellegrino metteva da parte per lei. La domanda rimase lì sospesa. Alfonsa cuciva dei bottoni su una camiciola e sembrava completamente assorbita dall'impegno di allinearli in bella fila. Il campanello squillò. Dalinda andò ad aprire ciabattando. Il fastidio di Ermelinda per quella disarmonia trasparì dalle sopracciglia e da un sospiro di insofferenza. «È arrivata», annunciò la serva senza garbo. Quella teoria di straniere non le piaceva e non faceva nessuno sforzo per non darlo a vedere. La signorina, che era poi un po' attempata, invitata sedette sul divano, composta fino alla rigidezza. Alfonsa valutò il naso troppo arcuato, gli occhiali, i capelli già grigi sulle tempie, Ermelinda registrò le scarpe da camminatrice, le mani eleganti e sciupate, le vesti severe. Le due sorelle scambiarono un'occhiata di approvazione, poi Alfonsa suonò per un rinfresco. Dopo molto spiare dalle fessure, i ragazzi irruppero nel salotto con una scusa, curiosi della nuova arrivata. La signorina si alzò e si fecero le presentazioni. Enrico sull'attenti, con le sue smanie da pre-militare. Enrico con l'aria da conquistatore, il fascino ancora inconsapevole, non frenato dalla scarsa avvenenza di lei. Mimmo ancora piccolo, però bene in linea con i fratelli, neanche un passo più indietro. Lea invece lontana, in secondo piano. Dai benefici indirizzati ai fratelli non era esclusa, ma senza che si dicesse, era chiaro che il suo doveva essere un destino soprattutto di madre. Dalinda prese con sé i ragazzi. Le tre donne in salotto convennero rapidamente orari, modalità, salario. All'ultimo Ermelinda sfoderò il suo tedesco un po' salottiero. Disse alla signorina che dell'occasione avrebbe approfittato anche lei, per togliermi un po' di ruggine. A Vienna non vado più da tanto di quel tempo, tanto perché la signorina sapesse che si era in grado di controllare il suo lavoro. Quando furono sole di nuovo, Alfonsa cominciò a spuntare la lista della lavandaia. Ermelinda riprese in mano il ricamo e come svagata ripeté: «Cosa dicevi poi per l'ebraico?» Alfonsa sospirò. Non restava che impegnarsi. La nuova carica di suo cognato alla presidenza delle comunità israelitiche non consentiva rinvii né espedienti. «Enrico andrà al Talmud Torah come tutti quanti», disse Alfonsa, scrutando con intenzione il ripiano non perfettamente spolverato della credenza. Impercettibilmente Ermelinda si irrigidì, poi riprese a ricamare con furia. «Un po' pochino, non credi?» Angelo disse con un fremito maltrattenuto d'orgoglio. L'importanza di quel suo marito la compensava di altre sconfitte. «Il mio Angelo pensava ad un rabbino giovane, qualcuno che possa occuparsi di tutti e quattro i ragazzi qui in casa, con tutta la serietà che ci vuole». «Lello ed io pensiamo che vada bene così», precisò Alfonsa. Ermelinda aprì le labbra per ribattere. La fronte ferma e chiusa di Alfonsa la convinse a lasciar perdere. Come molti, Enrico studiò l'ebraico e la Torah lo stretto necessario. La celebrazione del Bar Mitzvah, sembrandogli non altro che un passaggio obbligato, un adempimento formale da superare in fretta per dedicarsi poi ad occupazioni più laiche ed interessanti. Ermelinda, che già lo pensava rabbino, se ne dispiacque, ma non poi troppo. Gli regalò una kippah speciale ricamata come una trina e approfittò della festa che gli organizzarono per inserirlo un gradino più su nella trama di relazioni che supponeva proficue per lui. La festa fu soprattutto di grandi. I fratelli minori rimasero in disparte ai loro giochi. Per quella kippah di seta, Mimmo fece quasi una malattia. Enrico ebbe con lui complicate trattative, sfociate infine nel permesso di indossarla per un giorno intero. Fiero di sé, Mimmo fece la sua comparsa a scuola, con il collo irrigidito perché lo zucchetto, troppo grande per lui, rischiava di cadergli ad ogni movimento. I bambini della sua classe, da cui già lo differenziavano i troppi voti alti, cercarono di averlo in prestito a loro volta, ma Mimmo per nulla al mondo avrebbe corso il rischio di sporcarlo. Così, dopo aver messo a segno qualche malevolo colpo di cerbottana, cominciarono a prenderlo in giro, a chiamarlo donnetta per quei ricami che portava. «Non sono una donnetta, sono ebreo!» Alla dichiarazione di Mimmo si bloccarono, per la parola dai confini incerti. Lui si mostrava così sicuro e fiero. Di nuovo in soggezione si risolsero a chiedergli spiegazioni. Anche le sue idee erano vaghe, però Enrico in quei giorni qualcosa, per levarselo di torno, gli aveva raccontato. Così Mimmo poté gloriarsi di Abramo, il primo che fu definito Ivri, colui che viene dall'altra parte del fiume, ripetendo a memoria nomi e nozioni che anche lui era ben lontano da controllare. Disse Rabbi Yehuda perché tutto il mondo era da una parte e lui era dalla parte opposta. I compagni in ascolto di fronte a Mimmo. L'onere e il potere di dichiararsi diversi. Per darsi un peso concluse con una citazione della fonte, incomprensibile come uno scongiuro. Bereshit Rabba, disse piano. Rinunciando alla kippah e sopraffatti da tanta scienza, i bambini sgusciarono via.